chi è? Ah, io sei tu allora, buonasera. Sì, buonasera, Rubillo, sì. Ah, sì, sì, la parte più in giro, sì. Sì. Sempre in giro. Ah, sì, sì, non ti manca da fare qualcosa, cazzo. Almeno se siete in linea, dai. Ti fa bene. Sì, una base così. Certo. E allora, certo. Tocca a me, ma il drone, ma il drone siamo diventati, dai. Purtroppo. Quando ti muovi, devi muoverti. Quando ce ne voglia però. E se ce ne voglia, se non ce ne voglia, come fai a muovere? Io avere la voglia di uscire, di muovere. Io, voglia, non voglia, devo farlo per forza. Anche tu hai ragione. Però chi c'è in mezzo non lo sa. Infatti. Giulia, allora andiamo. Davvero, voglia, per carità. Cazzo. Beh, che non fa oggi, che non pensare oggi. Illuminami. Io non vedo meglio. È sempre un matessi. Fare il peggio e tu. Ah no, ho cambiato, non c'è niente nuovo, sempre la stessa cosa. E vabbè. L'importante è fare, bisogna fare sempre. Sì. Non fai così. Bisogna fare. E allora? Ah, mia Franco, buonasera. Cazzo. Appena andato già Ciara. Buonasera, buonasera. Non sono Franco, sono Gianni con l'influenza. Cazzo, bari Franco da Ravosi. Ah, boh. Con l'influenza, sì. No, gli fai il Covid, no. Non ho bizzicato l'aria condizionata. Lui. Marco Ribaldo. L'altro giorno che c'era caldo, ho acceso l'aria condizionata, mi ha fulminato. Mal di gola, tosse, raffreddore, anzi adesso poi sta passando. Certo. E tu poi bisogna all'aria condizionata. Fate per capire. Fate un vizio con fuggito io, ma. Sì, ma c'era il caldo che schiumavi a casa. Se non accendi l'aria condizionata crepi di caldo. E cosa fai? Da una base ti fa di me, da un'altra ti fa di mani, boh. Infatti così la rabbata di Vasilena, all'altra da Tegrima. Ciao Gio Maria, va. Ciao Fra, buonasera. Ben risentito. La questione seria è quando così. E a me non si mangia a cazzo il senso, sempre dalla condizione attorno. La tosse ogni tanto. Ma viene impulito alla gola e viene la tosse. E non vuol passare, non vuol passare. È maledetta. Cazzo, è la voce tua, è ben grossa, veramente sta beccato in pieno. Sono anche un po' raffreddato ancora. Diciamo il mal d'orecchio, ma bisogna dare raffreddore, tosse, mal d'orecchio, un po' di influenza, di febbre, ma pochi di niente, c'avevo 37,8 così. Sembra così, ma bisogna stare attenti a queste cose, però nemmeno che aspetti che becca, purtroppo è così, ma piano piano già esce fuori, dai. Bisogna andare dal dottore e solo così si può utilizzare la cosa ben fatta. Ah, io ho preso Lucchi e non ci siamo più, io ti passa subito. Infatti la freddore un po', cioè tutti quelli saluti che ci avevo non ce li ho più, il naso è un po' tappato, ma quelli saluti che ci avevo prima, vedi come ci stanno tipo. Mattello, è un mattello. In un attacco di fretta a Torre, Torre è sempre bello, più facile, tranquillo, sto dietro. Devo cercare io per gli anni, devo stare sotto a condizionatori. Purtroppo è così, quando rimane con l'aria condizionata accesa, bugaroni, si pica. Chi è avanti? Era questo fra. Ah, c'è il cinto questo. E ha sentito qualcosa fuori? Era da fuori, era in FM era. Ah, in FM. E dico che siamo qua, che la porta è aperta. Era tutto sparato, che cavolo era? Cos'è qua? Boh. È così. Purtroppo io ho il divano sotto il condizionatore, mi sono sdraiato e l'aria fresca mi ha rilassato e mi sono dormito col condizionatore acceso, quindi mi ha fregato per quello. Le case si fa bene perché il caso non è il fatto fa. Se c'è un burigrosso che ha fatto la chitta cattiva, non entra un grande. Qui ci dovrebbe essere sempre fresco, no? Dove qua? Non è come questo qua, no. Sta cercando per un caso entra meglio di se pura, ragazzi. Mentre da voi invece è diversa l'appartamento, più grosso, più riservato, è là. Diciamo che da una parte la mattina c'è il fresco e dall'altra c'è il caldo e viceversa la sera. Quindi se tu ti regoli con le finestre, apri la mattina dove c'è più fresco e la sera apri dall'altra parte. E diciamo che tenendo chiuse le finestre dove c'è caldo non entra molto caldo, ma quel giorno che ha fatto quel caldo micidiale non si poteva stare lo stesso, c'era troppo caldo. E alla fine io ho acceso il condizionatore, io sono un po' legatovi col condizionatore, non mi piace, però l'ho acceso perché stavo schiumando. Io preferisco più l'inverno che l'estate, perché almeno se uno appena si muove, fa movimento, si riscalda, ma in estate quando c'è questo caldo maledetto, mamma mia ragazzi, io sono in posa e non riesco a riposare. E io anche la notte se stai con la finestra aperta ti pigli i malanni, se la chiudi sudi. No, noi siamo stiamo dormendo a finestra aperta la notte, perfetto, tutto aperto la finestra per stare il podaggio. E certe volte c'è l'aria, certe volte non c'è niente per cui, però cazzo la pentola io per cui, perché il condizionatore l'ha acceso solo prima di entrare, la mezz'oretta, dopo l'accendo e accendo la pentola e sono fino a macchina presto, si è facendo e si sta più bene, dai. Perché l'aria condizionata mi fa male. E anche a me mi fa lo stesso effetto, mi asciuga la gola, mi fa tossire. E anche in macchina è così, io non li accendo mai, manco in macchina. È difficile che l'accenda, apro i finestrini, ma l'aria condizionata non l'accendo perché mi fa quel difetto lì. Mi asciuga la gola e mi fa tossire. Un macello per fare stare. Avanti. Purtroppo è così, se non viene che mi rimane pure qua con l'abbesso, entra l'aria fresca, se la sarri va il gatto, quindi non sai come ti arrivare, l'unica cosa è sotto le lizzoni, rimane così, rimane. E alle notte c'era la rietta, per cui si stava bene, mi sono anche coperto le gambe con le lenzuola, cazzo, perché c'era anche il fresco. E ieri notte si stava veramente bene, però non ce n'era caldo, c'era la rietta per cui si stava bene. Ma quando c'è caldo, vento caldo la notte, per carità, non riesce a riposare il tocco. Però ieri c'è abbassata la temperatura, per quello c'era fresco. Sì, mia madre già si stava bene, io però mi ho messo però sotto il lenzuolo e stavo benissimo, non va via né freddo né caldo. Ieri notte, però sotto il lenzuolo stavo benissimo. Ma infatti, anche io stavo bene, invece mi sono coperto le gambe perché io, grazie, io ho sempre freddo le gambe. E poi quando entra la rietta fatto di ghiacciare le gambe, allora mi sono coperto. Perché sono un po' delicato dalla diabete alle gambe, dalle ginocchia in giù. Da... E per cui mi devo coprire, tirare un bacetto. Oh, yeah. E pensa. E vabbè. E cosa vuoi fare? Niente, non si può fare niente, fra, ripreso. Tommarì, non è Franco, è Gianni. Ah, Gianni, a te lo prendo per Franco. Dai, che sei tu questa voce strana, eh. Allora l'ha beccato veramente. Sì, sono io, non è Franco, sono io. E purtroppo ho la voce così, non posso manco cantare adesso. Oh, ma dove hai sentito la voce del genere? Ti ho preso un caso per Franco io, ma guarda un po', boh. Oh, forse perché sono anche con le cuffie, sento la voce che è un bel grossa, capito? Non lo sapevo riconosciuto già. E vabbè, succede, succede anche queste cose. Per forza, perché la gola non è a posto, e mi dà questa voce rauca, cavernosa. Ah, tanto, ma tu te lo immagini? Io me lo immagino giù, come ti pare a voce, vedi grossa. È una bella tavola. Ma tu stai tra a me? Lui, che è andato a farmi sapere la lecce, a volte intendo ancora più bene. Ah, è bene, tu da posto, adesso ci senti bene. Tutto troppo intendo, va. E cos'è la tappo? Ah, pulita, ma aspirata direttamente, senza buoni minuta, ha fatto aspirato il gru. E non ci devo dare, niente. Non ci devo dare, fu buro. Ma mi ha fatto un po' che domare, però già mi è uscito. E sto fatto lo champagne. Mi sono già champagne, ma ti sono riuscito a curare, mi ha fatto un rumore. Mi siete sopravvolati, uccidi. Ma cosa ho usato? Lo sgonfiatore delle gomme? Io sono sgonfiatore delle gomme? Beh, già una cosa buona che la stampate, niente. Ma quando è una cosa buona, no? Niente. Per carità. E vabbè, anche queste cose si chiedono. E a volte la polvere, queste cose si accumulano, poi si forma CO2. C'è anche un po' di... quando c'è raffreddore, cose così, si forma. Quindi a noi faceva male l'orecchio questi giorni. È poco brutto per il mal d'orecchio, cazzo, già. Cazzo, sono stato la legge matta lì a Politico. Ho stato più di un mese perché non dormivo. Nemmeno mangiare fa tempo. Stefano mal di testa, non riuscivo a mangiare, oh, i dolori che ho passato. E meno male a forza di cose, di queste gocce sono riuscito a mettere la posta. No, non lo sento, io lo sento a quell'orecchio a sinistra, capito? Già sento poco alla destra, ma anche a sinistra sento quasi niente. E che cosa hai avuto al tipo? Ah? Cosa ti è successo al tipo? Io avevo tutti gli anni a con il clinico, no? A pulirmi, tutti gli anni. Ultimamente mi ha lesionato l'intimpano. Però io l'ho sentito il fisico. Ah, lei la volta che ha visto così, già se ne è accorta. Ha mandato via senza darmi nulla. Ah, se arrivo a casa non dico niente. Sono dovuto andare a cosa, al medico di guardia, che mi hanno fatto il pagliatino, e mi sta palazzo bianco. A palazzo bianco a mezzanotte quasi. Non potevo farmi niente perché ero diabetico, è un macello, guarda. E sono stato un mese, qualcosa che non potevo stare. Ma io sarei tornato da lì, gli ho detto, guardi cosa mi ha combinato. Adesso la denuncio, cazzo. Cioè, io non capisco, boh, non ci mettono un po' di cose, di pratica, di cose, di sentimento quando fanno i lavori. Cazzo, brutto è, brutto, posso mangiare al sole, cazzo, a non sentire nulla, acqua in orecchio. Adesso è tranquillo, per cui va bene. vedevo infatti, da, a sinistra non ho sento niente, a destra un pochettino, però ogni tanto mi metto gli apparecchi quando vado a qualche posto e sono tranquillo. A casa non me ne metto, dai, faccio a sollevare la voce per il sentire. E con l'apparecchio senti bene? Eh? Con l'apparecchio senti bene? Con l'apparecchio è un bombo, cazzo, è normale, no? Con l'apparecchio è normale, cazzo, sarò fermo. Però è fatto fastidioso, cazzo, in casa, non puoi rimanere per così tanto su di cazzo, queste cose devi tenere ben conto, capito? Perché sono apparecchio, che costa un mucchio di soldi e devi essere cazzo. Ah, quando esco fuori a fare qualche vista già me ne metto, capito? E poi sono piccole, sono impercettibili, basta uno nulla per perderle. Una mica mia l'ha persa al mare. Battello, sto riprendo un attimino. Da fuori la te mi fa chiamare un rumore. Mio padre mi ha detto che sembrava di sentire tutto amplificato dopo che gli erano puliti. No, no, a me sono che hanno già crescendo, intendevo shh, cazzo, e forse muro. È quello perché ha liberato tutto il canale. E poi adesso senti bene, almeno se sono venuto a parecchio intendo. E infatti, ma vai a intendere che non tengo un volto, intendo. Anche se parli da lontano ti sento benissimo. Anch'io devo avere qualche tappo, perché a volte quando mi parlo lo sento un po' confuso, non riesco a capire bene quello che dico. Sento un po' confuso, magari anche con l'uso le cuffie per cantare. No, l'unica cosa è io sono salito al Conti, avevo l'appuntamento, ma mi fate entrare 5 minuti, ma poi a farmi lì 5 minuti me ne è cavato tutto, se ne entrata, ma così guarda dove mi ne rendendo. Vabbè, meglio così, che non sia niente di preoccupante, dai, che era solo quella fesseria. Sì, ho usato il motore a aspira tutto, a me l'ha aspirato, tanto poco che la volta il suo gozio a aspirare. Cappa cappa, meglio così. Ha già gettato 2 mesi, ha già gettato. Vabbè, fatto fatto, ma sono libero. Si sente un risplato, sono tornato le cucchiere, non riesco a trovare. E qualcuno da lontano deve essere, boh? No, non lo so. Noi almeno ci abbiamo parlato con Brindisi quando è davanti di ieri. Io quest'anno non ne ho fatto quasi nulla di ex. Sì, all'inizio della primavera poi non ne ho più fatto. No, stavamo parlando con Gio Maria, stavamo parlando dell'entrata questo qua, di Brindisi. A me ha detto che mi tende a voci, a lui lo sentivo basso io, però lo sentivo. Ma infatti dipende sempre dalle condizioni che ha di lavoro. Dipende sempre con cosa sta uscendo, che condizioni di lavoro ha. Dai, sto chiedendo che sia venuta gente, ci sentiamo alle prossime, prossimamente. Ciao cantore, va, sto riprendo, io chiudo. Sì, ok Giammari, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao, avanti già. Ciao Giammari, ciao, buona continuazione di serata, ciao, ci sentiamo, avanti Ito. Fate così. No, mi va bene, tutti e due, Enrico che ci amava. Quasi inteso l'ho fatto entrare. Dove chiama, mi intendi a Santiago 9, Radio 5, buona. E io a lui lo sentivo Santiago 7, la radio, però lo sentivo. E magari era in condizioni con la qualcosa, magari di quelle di fortuna, eccetera, di Pérez. sempre come esci, la zona dove sei, capito? Dipende da tante cose. Poi la gente che la mette dal nord Sardegna, non è tutto. Per non stare a coso, ci ha salutato tutti e due. Ho parlato due minuti a voi e manca da due. Era di quelle propagazioni in corso, dai. E allora, la propagazione e se ne andata da subito. E vabbè, io mi ricordo che a volte anni facevo di queste con ruote di furi, mi passavano da l'una all'altra e cosa parlavamo, stavamo anche un'ora e mezza, sempre parlando. Ma era lunga come propagazione, capito? Adesso non viene più così lunghi. Infatti non ve ne più, ti fate sì, 10 minuti, ma non di più, sta scendendo. Ma adesso c'è la propagazione perché si sentono i rumori. Infatti, si sentono i rumori, si sentono. E molte volte lo senti, però dopo c'è nanda. Oppure ci sono persone che tu le senti e loro non ti sentono, oppure fanno finta di non sentirti, le chiami non rispondono. E anche quello. Quello di avanti ieri era. Perché mi sentiva forte, mi sentiva. Certo, è la prima volta che mi intendevo i voti. Una volta in FM, ce l'avevi tu dici, io ho provato a chiamarle, a Ktunga, Ktunga. E non mi pulia, e alla fine ho detto, cartofo, il telefono che vuole fare, e lui mi sono incazzato. Ma che nome? E io ho telefono che non lo sbaglio. E loro, ma che nome? Per la giornata a cosa mi più. E vabbè. Aspetta già, intendi la prossima volta. Allora già intendi, hai detto. Adesso mi arrivi i voci. Sì, ma io ho provato a chiamarli, io ho chiamato Ktung Germany, Italy from Sardinia, niente, non rispondeva. Perché fanno finta di non risponderti neanche, non ti vogliono rispondere loro. Molte volte si fa di questo da soli, ridono, fanno. Io l'altra volta in FM ho beccato questo qua che era italiano e poi abitava in Germania, ma fece metà di più di misura tutti e due, certo, entrava tra gli altri la Germania che non comprendeva nulla. Una volta a me mi ha fatto venire la pelle d'occa uno, era in Olanda, era immigrato, era italiano, immigrato in Olanda. Quando ha sentito che è italiano si è messo a gridare, Italia, Italia mia! Mi ha fatto venire lo zucchero. Oddio, cosa hai detto? Che era morendo? No, ha detto che era 30 anni che non andava in Italia. Certo, quindi non va via di là, andare in Italia. Chi va fuori a lavorare non è perché è ricco, ci va perché non trova lavoro qua. Adesso stanno andando tutti quanti in Inghilterra, tutti quanti, dice che ci sono l'invasione di italiani. Sì, mia figlia me lo sta dicendo, me ne ha detto, che stanno arrivando un sacco di giovani in Inghilterra, però devono pagare 5.000 euro, devono pagare se vogliono restare in Inghilterra. Perché 5.000 euro? Perché non c'è più come prima, è scaduto quel coso lì. Adesso se vuoi rimanere, devi rimanere almeno 6 mesi e poi devi pagare 5.000 euro. Hai visto? Si fanno pagare, vedi? Sono rompi. Mi taglio invece a me, a chi è già taglio, e anche tu devi fare la cura, devi pigliare i bacini, mia e te. Infatti, la sentesi, vabbè. Allora, ti salutiamo già, alle prossime. Ci risentiamo alle prossime, ci risentiamo. Ok, ciao già, così lo porti giù e boh. Ciao Dore, ci sentiamo alle prossime. Ciao anche a tutti gli ascoltoni, ciao a tutti. Ok, ciao già, ciao agli ascoltoni.